cielo, capita tu bene o male a terra, la tua guerra che non c'è chi perde né però chi vince. Per ogni amore sbagliato d'un pelo oppure perso giocandolo a morra, ho atteso in coda col tuo numerino e sei il solo a non spingere. Per ogni ora passata in campo e non ti sporchi neanche la maglietta, ci vuol sudore, un minimo di cuore se non vuoi lo zero a zero. Per ogni passo strisciato stanco e nel frattempo tutto il resto è fretta, e la scelta è o resti fuori o corri per davvero. C'è chi corre e chi fa correre, e c'è chi non lo sa. Io so solo che quando tocca a te, quando tocca a te, quando tocca a te, tocca a te. Avuto ed avere, e non ti restano più guance da offrire, e quella mano sempre troppo uguale che non sai evitare. Per ogni storia andata a finire nel modo che fa sempre sbadigliare, in questa festa sei nell'angolino e non vuoi disturbare. C'è chi sceglie e chi fa scegliere, e c'è chi non lo sa. Io so solo che quando tocca a te,